English 24. Un saluto da Marta Cagnola e da Giulia Crivelli. In questo appuntamento di English 24 io direi che ci trasformiamo proprio in due rapper. Siamo molto americane e andiamo a scoprire un artista che è stato molto famoso qualche anno fa e che adesso ha deciso di fare un grande rientro, ma soprattutto un accento, un modo di parlare molto interessante da ascoltare. Stiamo parlando di Coolio. È stato a Milano anche perché ha girato un video a Milano, ha deciso di tornare facendo un remix della sua famosissima Gangsta Paradise. L'ha incontrato per noi a Milano Paolo Panceri, ma soprattutto ci ha permesso di scoprire come parla Coolio e sentiamo subito come ha raccontato come mai ha deciso di fare questo remix. In the last couple of years the way music sounds changed a lot and it's more directed towards clubs, the club atmosphere, but the it's more high, like a high energy mix. And over the last couple of years, it's been many people on the internet and on YouTube. If you follow YouTube, they have been doing their own remixes, kind of like a Gangsta Paradise, so many times. And you know, some of them were okay, but it was nothing really original. So it's just more like the fans wanted to hear a remix of it. So, and if it was going to be a remix of Gangsta Paradise, then I probably should do it myself. Eccolo qui come parla Coolio, davvero rapper, dai. Davvero rapper, e tra l'altro consiglio a tutti chi non l'avesse visto di vedere il film 8 Mile, dove Coolio non c'era, ma c'era il mitico Eminem, non in veste di Eminem, ma come se fosse Eminem. Era una sorta di film autobiografico, perché lì si vede veramente, si sente questa parlata, che è una parlata tutta particolare, tipica in generale dei neri, ma che poi se i neri sono anche dei rappers è ancora più enfatizzata. Ma come mai ha deciso di fare questo remix? In un certo senso l'idea, dai, l'ha rubata, diciamo così. Sì, si è accorto, e tra l'altro verrà fuori anche più tardi, che lui è molto attento a quello che dice il mercato. Cioè, può non essere d'accordo, però il mercato è sovrano. Quindi si è accorto che in the last couple of years, quindi negli ultimi, letteralmente nelle ultime coppie di anni, noi diciamo in italiano negli ultimi anni, sounds changed a lot and directed towards club. Cioè i suoni, il tipo di musica che si ascolta, secondo lui ha notato che è cambiato molto ed è diventata più tutta una club atmosphere. Cioè anche nella musica che viene poi venduta c'è questa atmosfera rubata un po' dai club, e quindi gli artisti devono adeguarsi. E cosa ha fatto? Una cosa che facciamo tutti, quella di saltellare un po' quella su YouTube. Sì, a chi non è capitato dire vado a vedere una cosa su YouTube, e poi almeno a me capita che resto lì attaccata due ore, tre ore, perché da video chiama video. Loro sono bravissimi a dirti: potrebbe interessarti anche questo. Insomma, many people on the internet. E poi lui dice: if you follow YouTube, che è proprio così, cioè se segui YouTube, se sei un follower di YouTube, non un follower di Twitter, ma di YouTube, che secondo me è molto più addictive, cioè ti dà molta più dipendenza YouTube. E poi naturalmente sappiamo, io non sarei capace, però c'è tanta gente che fa i remix da soli delle canzoni che piacciono, e quindi they have been doing their own remixes, cioè le persone usa questa forma verbale che sappiamo vuol dire che è una cosa che si fa lungo molto tempo, quindi hanno fatto in questi anni, in questi mesi, their own remixes, cioè la loro versione personalissima del remix, in questo caso di una sua canzone, appunto la famosissima e bellissima Gangsta Paradise. E lui si è accorto che in tanti l'avevano fatto più o meno bene. Sì, allora dice, vabbè, some of them were alcune erano passabili, possiamo dire, nothing really original, non che ci fosse niente di originale. Però lui ammette anche qui, è chiaro che erano it was more like, questa è un'espressione molto usata, che vuol dire, diciamo che è più quello che succedeva, è più che i fans wanted to remix, cioè si vedeva che erano i miei fans che avevano questo desiderio, visto che YouTube ne dà la possibilità, di mettere online, su internet, il loro remix di una mia canzone. E quindi l'ha detto chiaramente, allora a questo punto la faccio io. Allora dice, if there's gonna be a remix of Gangsta Paradise, beh, se proprio ci deve essere un remix, then I probably should just do it myself. Then, beh, forse dovrei semplicemente farmela io. E così ha fatto, ha rifatto anche il video di questa canzone molto amata, amata anche più delle altre che ha fatto, ma ce lo spiega lui. So that it'd be the best possible remix you could get, as well as having a new, you know, up-to-date video, you know, which something that's more correlated to the way videos look now versus how videos looked in the 90s. So we just try to take it to a take it to another place. You know, I feel like I've done probably 20, 30 songs better than Gangsta Paradise, but that's what everybody seems to want from me for the last 15 years. That's all they've wanted is Gangsta Paradise. So, you know, I just give it to them because that's what the people want. Succede spesso che un cantante dica: ma come, io ho fatto un sacco di canzoni meglio di questa, però la gente vuole questa. È successo anche a lui con Gangsta Paradise. E però dice: va bene, ok, allora l'ho fatto io, no? Perché prima ha detto: I probably should do it myself, and then it's the best possible remix you could get. E quindi è il migliore remix che mai potrete avere. Quindi the best, questa è un'espressione molto usata, no? The best possible remix you could get, o non so, il the best deal you can get. A volte si entra in un negozio di saldi e ti dicono: meglio di così non è possibile, it's the best price you can get. Ecco, questo è il best possible remix of Gangsta Paradise you non, can get. Non proprio modesto, ma non importa. Ha fatto il brano e il video, anche quello l'ha aggiornato in un certo senso. Sì, perché dice che the way videos live now, questo è un bel modo di dirlo, cioè che il modo in cui oggi i video vivono, it's versus as opposed to, cioè se confrontati con the way videos lived in the 90s, quindi nel modo in cui vivevano negli anni 90. E quindi abbiamo preso questo Gangsta Paradise remixed e l'abbiamo take it to another place, che letteralmente vuol dire l'abbiamo portato in un altro posto, ma che significa semplicemente che l'abbiamo innalzato di livello o abbassato di livello, comunque un livello diverso. E qui dice la cosa che diceva Marta, dice: you know, I've done 20-30 songs better than Gangsta Paradise. Cioè lui, se lui deve valutare il suo lavoro, dice che ha fatto almeno 30 canzoni che sono migliori di Gangsta Paradise. Però se questo è quello che la gente vuole, lo dice, just give it to them, bisogna darglielo. Because that's what people want. Credo che sia accada, no, agli artisti che magari hanno il successo con forse un brano a cui poi si disaffezionano, anche perché forse poi lo devono suonare troppe volte, quindi succede. Ma adesso che musica vuole fare Coolio? Che musica farebbe al di là del remix, che un po', diciamolo, serve anche per tornare al successo? I'm more, you know, make music for myself now, you know, versus you know, I try to keep things up to date, but I'm not completely I don't completely feel comfortable with the way music is now, especially hip hop. Some of it is not really that great to me. So I, you know, but that's what people want. Obviously, if the way music sounds now, people are buying it, then I suppose, even though, you know, people don't buy as much records as they used to, and it's more downloads, people don't even really buy a whole album anymore. They buy song for song. So in order to compete in the music business, you have to try new things and you have to do things in a new way. E qui ci sono due aspetti fondamentali. Intanto lui dice: io faccio la musica che piace a me, no? I make music for myself. Però bisogna anche compete in the music business, bisogna anche essere competitivi nel music business, per forza. Sì, dice, insomma, non si risparmia questa piccola vena polemica, dice: I don't feel comfortable with, to feel comfortable with, vuol dire essere a proprio agio con qualcosa, with the way hip hop is now, quindi the music, it doesn't feel that great to me, cioè a me non sembra poi così fantastica, però è quello che è, people are buying it, le persone la stanno comprando. Poi si corregge e dice: beh, in realtà people don't buy as much music as they used to. Questa è un'espressione che in italiano dobbiamo tradurre in un altro modo, dobbiamo dire: oggi le persone non comprano più musica come si faceva una volta, quindi come erano usi fare, letteralmente, ma naturalmente in italiano parlato noi non lo usiamo, però il senso è questo, che una volta succedeva, adesso non più. Anche perché people buy song for song, non ci sono più gli album, e allora bisogna fare le cose in un modo diverso. Quindi you have to try new things, dice, new things in a new way. E quindi dice, non si sottrae, questo mi piace, insomma, c'ha le sue, ammette di sentirsi un po' fuori posto, però dice, vabbè, ok, se voglio stare competitive in questa music business, I have to try new things, devo provare delle cose che probabilmente per lui sono nuove, o fare delle cose nuove in un new way, in un nuovo modo, quindi reinventarsi. Direi che tutto sommato, insomma, povero Coolio, ci prova. Salutiamo Coolio, che è stato a Milano, l'ha incontrato per noi Paolo Panceri. Il nostro tempo radiofonico anche per questa settimana si conclude qui. Io ringrazio Fabio Cantadori in regia, vi ricordo che English 24 è anche in edicola anche questo mese. Da Marta Cagnola e Giulia Crivelli, l'appuntamento al prossimo English 24.